la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 20 di novembre, 16:37 e 30 secondi, iniziamo sempre più tardi, sempre più breve, quindi vado subito al tema di oggi. Ieri ho letto due articoli dello stesso autore che mi hanno fatto molto profondamente pensare a come i bravi economisti diano dei numeri e prendano dei temi che hanno una grande rilevanza e riescano a oggettivarli in maniera tale proprio su argomenti che di solito dividono, perché la gente su questo ovviamente si tira i capelli per ragioni politiche, ideologiche, culturali. Il tema io intanto ve lo butto lì per vedere se qualcuno di voi all'800 24 0024 in ascolto vuole telefonarci, perché il tema è un tema delicato politicamente, culturalmente, però il problema è che il nostro ospite lo ha affrontato con i numeri. E qual è questo tema? È la generazione dei sessantottini italiani. Volevano cambiare il mondo, volevano cambiare l'Italia. Eppure, a giudicare da quello che adesso vi spiega l'ospite, si sono sistemati molto bene nella gerarchia dei redditi italiani, cioè del potere. E se andiamo a vedere, naturalmente, nelle professioni intellettuali, come nella politica e così via, e ci poniamo il problema di capire i rivoluzionari, di servire il popolo, di lotta continua e di potere operaio, e vediamo chi oggi è al vertice, insomma, dell'influenza politica, culturale e così via, insomma, i nomi sono tanti. Perché e c'erano nel pezzo dell'autore di ieri, sono tanti, Renato Mannheimer che tutte le sere da Vespa per esempio era un marxista leninista, e come no, stava a servire il popolo, anche Antonio Politico che poi ha cambiato idea nel tempo, Linda Lanzillotta che è in Scelta Civica, in lotta continua, ovviamente Adriano Sofri, Marco Boato, Enrico De Aglio, Paolo Liguori, Luigi Manconi, Gad Lerner, Toni Capuozzo, Giampiero Mughini, in potere operaio, sì c'era Toni Negri, ma c'era anche Massimo Cacciari, c'era Francesco Pancio Pardi, c'era Gaetano Pecorella, Paolo Mieli, Ritanna Armeni, insomma pare proprio che ai vertici del potere ci siano loro. Ma non è di questo, non era un giudizio politico-culturale che parla l'autore, che vi presento subito, perché è il professor Riccardo Puglisi, che insegna politica economica all'Università di Pavia, è ricercatore e poi tiene corsi in Bocconi, e che saluto e ringrazio di essere con noi, professore. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Lei è partito da un punto di vista oggettivo, cioè ha visto come negli ultimi 20 anni, dal 90 ai 2010, è andato il reddito diviso per corti di età, cioè chi si è valorato di più come reddito medio e chi meno. E che cosa esce fuori da questa disaggregazione per corti di età? Viene fuori questa cosa. Innanzitutto sono dati molto buoni, perché sono i dati della Banca d'Italia, che fa un'indagine ogni 10 anni, ma in particolare ha dato anno per anno, e il dato interessante è che coloro che nel 2010 avevano tra 55 e 64 anni sono quelli che hanno sicuramente il reddito più elevato. Ok, questo uno potrebbe dire, sono in cima alla loro carriera, i redditi crescono durante la carriera, ma se uno va a vedere quello che succedeva negli anni precedenti, sostanzialmente non facevano così bene, cioè questa stessa generazione ha sempre fatto meglio, mentre altre generazioni, come si dice, avevano redditi migliori precedentemente, mentre ora, per esempio, quelli più giovani sono messi molto peggio adesso, o comunque non hanno migliorato tanto come quelli che ora, o almeno nel 2010, perché sono 3 anni fa, l'indagine di 3 anni fa, avevano tra 55 e 64 anni. Questa è la generazione, se uno fa un po' di, come dico io a lezione, un po' di matematica ad alto livello, cioè sostanzialmente calcola chi sono costoro, qual è questa corte, sono sostanzialmente quelli che sono nati dal 46 al 55, e facendo ancora dell'altra matematica ad alto livello, si arriva alla conclusione che costoro sono quelli che avevano nel fatidico 1968 tra i 13 anni e i 22 anni. Evidentemente questa è la classificazione di Banca d'Italia, comunque quella è la generazione rilevante, e quella è la generazione che fa molto bene. La questione è diamo anche il numero, quando si dice molto bene significa che a prezzi correnti, quindi insomma tenendo conto tenendo conto dell'inflazione, no, perché altrimenti il confronto sarebbe un po' viziato, no, a prezzi costanti, cioè tenendo conto dell'inflazione, questa generazione fa molto bene, e evidentemente è un'intera generazione. Cioè in 20 anni passa da 100 a 130 come reddito medio più o meno. Esattamente, mentre ci sono altre generazioni che sostanzialmente sono fisse al palo, per esempio quelli tra 19 e 34 anni, la generazione tra 35 e 44 fa abbastanza peggio, i grafici dicono cose abbastanza precise. Il controtest sarà vedere tra 10 anni se la generazione successiva, cioè quelli che adesso hanno fra 45 e 54 anni, ora e avranno tra 55 e 64, tra 10 anni, invece faranno peggio, perché allora vuol dire che c'è qualche cosa di relativo ancora più forte, una evidenza ancora più forte relativa alla, a questo ruolo privilegiato di questa generazione. Oh, ma se andiamo a vedere le serie retrospettive, lei l'ha già detto, con questa intensità di differenza e di avvaloramento per questa corte di età in 20 anni, in precedenza non funzionava così in Italia. Domanda, e qua si va, inizia già ad andare sul terreno scivoloso, perché sono cambiate le dinamiche dei redditi, perché è cambiato, si è abbattuto il tasso di crescita medio italiano nel frattempo e così via, oppure perché ci sono elementi per immaginare che nella lotta per la distribuzione, per così dire, questa corte aveva armi più taglienti delle stesse corti di età nei decenni precedenti che non avevano ottenuto gli stessi risultati? Beh, diciamo, allora l'idea è la seguente: io guardo delle correlazioni da economista, mi piacerebbe avere evidentemente dei dati migliori, ma non è così facile ottenere dati microeconomici. Cioè, sarebbe una ricerca bellissima, uno studente di dottorato potrebbe fare una tesi su questo tema, se va a scartabellarsi gli archivi e va a vedere nelle varie università chi aveva posizioni apicali nei vari movimenti che aveva citato lei prima. L'idea è che c'è un galleggiamento, perché se l'economia va bene tutte le generazioni vanno meglio, però il problema è differenziale, cioè il fatto che quella generazione va sensibilmente bene e non subisce degli scossoni che invece le altre generazioni subiscono. Quindi il discorso sulla crescita economica allora dovrebbe valere per tutti, il discorso sulla decrescita economica, il discorso differenziale. Per annoiare l'ascoltatore, uno deve confrontare come se fosse un esperimento generazioni diverse che affrontano lo stesso momento temporale, perché tutti vivono, non so, la crisi economica del 2008, ma se la cavano differenzialmente bene. Questo è il punto che a me interessa e su cui bisognerebbe avere altri dati. E io sinceramente l'ho collegato, ho fatto un discorso che ha uno step politico che, come diceva lei, potrebbe essere un po' scabrosetto, però la questione è che quella generazione viveva in un clima in cui c'era una certa lotta, un clima di lotta, un clima di rivendicazioni anche giuste nei confronti, ritengo, per esempio del classismo e dei favoritismi di tipo classista all'interno della scuola e dell'università. Non sto negando questi temi, certo, ma diciamo si è rapidamente tracimati, sempre a mio parere, su un crinale, diciamo, non così buono e non così meritocratico. In particolare si è tracimati, facevo questo discorso in un articolo precedente che avevo scritto per il mensile online Strade, verso questa idea dell'uguaglianza dei punti d'arrivo, Che non l'uguaglianza dei punti di partenza, che modestissimamente per me liberale non ha niente a che vedere con l'idea di eguaglianza, però è diventata la BC del mainstream, del pensiero comune. L'eguaglianza significa: io ho diritto a una casa, occupo una casa anche se di altrui proprietà, perché ho questo diritto. L'eguaglianza dei punti di arrivo. Allora, su questo ci dobbiamo interrompere, perché abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo col professor Riccardo Puglisi sul tema: i sessantottini volevano abbattere il potere, ma se lo sono preso! La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:47, primi 44 secondi. Avete sentito, vengono annunciati programmi di privatizzazione dal governo. A Genova il sindaco Doria ieri, insieme ad alcuni sostenitori nella sua maggioranza, di una, diciamo, neanche troppo coraggiosa privatizzazione, ma insomma di una cessione dell'AMT, l'azienda dei trasporti municipale, dopo la violenza di ieri, bloccati dallo sciopero oltranza di oggi pomeriggio, poco due ore fa, hanno alzato bandiera bianca. Rimarrà pubblico, non ci cede niente, e questa è l'atmosfera che resta, secondo me, dominante. Ma parlavamo di una generazione che individuava nell'eguaglianza dei punti di arrivo l'idea di eguaglianza per cui lottare, e che oggi, se uno va a vedere come è andato il suo reddito medio in questi 20 anni, beh, va molto meglio di quella di qualunque altra corte di età di italiani. Allora, riprendiamo dal 6 politico, del 18 politico, che nelle scuole era il simbolo, no, di che cosa voleva dire per tutti l'eguaglianza dei punti di arrivo. C'erano anche elementi di, non solo l'elemento del voto minimo garantito, che quindi diciamo non è esattamente il massimo, diciamo, come direbbe un certo politico della meritocrazia, e dall'altra parte c'era anche il voto collettivo, cioè l'idea che la responsabilità non è individuale, ma un voto, una persona parla e all'esame e il voto vale per tutti. Quindi diciamo l'idea del avere diritti, questa dimensione del diritto, dell'avere diritti e tutti quanti in media senza distinzioni, che chiaramente dal mio punto di vista di politica economica alla fine può realizzarsi soltanto, beh, innanzitutto le persone hanno cercato di realizzarlo, le persone appartenenti all'elite sessantottina hanno cercato di realizzarlo occupando posizioni di potere, in particolare in settori della cultura, i media, l'università, la politica, eccetera, le case editrici, i giornali, eccetera. Dalla parte però macroeconomica e di finanza pubblica, il modo in cui questo può realizzarsi è sostanzialmente scaricato su qualcun altro il costo, ovvero sia io mi garantisco salari alti, dopo un po' con un sistema di pensioni retributive mi garantisco pure pensioni alte allora e le prenderò dopo, chi paga, paga pacchioni, paga qualcun altro dopo, ovvero sia si accumula debito pubblico. Quindi io sinceramente accomuno questi fenomeni che sono insieme culturali e appunto economici. Allora, un mucchio di ascoltatori, come immaginavo, reagiscono durissimamente. Naturalmente molti mi danno del cretino, perché io spaccio per eguaglianza dei punti di arrivo, un'idea invece di eguaglianza che è fondamentalmente diversa e molto positiva, che è l'eguaglianza dei mezzi. No, ragazzi, dal mio punto di vista l'eguaglianza dei mezzi è più o meno la stessa cosa, non ha niente a che vedere con l'idea di eguaglianza. L'eguaglianza deve essere quella dei punti di partenza, cioè dei diritti, e non si misura in unità di capitale, in unità abitative, in unità di reddito, in unità di patrimonio uguali per tutti. Questa è un'idea collettivista, comunista, antiefficientista, che presuppone che c'è qualcuno che stabilisce per tutto, dall'alto, dirigista. Se ancora, per carità, magari siete in maggioranza ad ascoltarci, a pensare che la storia non abbia proposto un'infinità di lezioni per cui quei sistemi finiscono nel fare l'esatto opposto di quello di cui siete convinti, non intendo farvi cambiare idea, però la mia idea è questa. Senta, professore, lei a che corte di età appartiene? Cioè, lei ha fatto il 77? No, direi proprio no, perché sì, se fosse cominciato negli anni dell'asilo, sì, però io sono del 74, quindi se ci fosse stato un qualche movimento politico negli anni dell'asilo ci avrei partecipato, ma fatto 3 anni. Ma nell'università dove lei opera, lavora e insegna, c'è un fenomeno del tutto analogo a quello che lei ha visto estrapolato in questi dati sul reddito, cioè comandano i sessantottini? Beh, diciamo che c'è chiaramente variabilità, dipende da settore a settore, ci sono settori in cui si fa più ricerca, settori in cui si fa meno ricerca, però l'idea è che non è che c'è un'accettazione, ecco, parliamo per eufemismi, diciamo, non è che c'è un'accettazione così forte, per esempio, dell'idea che i propri incrementi salariali, non si sta parlando di decrementi salariali, perché si parla di rimanere fermi oppure di salire, incrementi e decrementi o comunque variazioni che dipendono dall'output di ricerca vengono visti malissimo. E io questa cosa sinceramente la trovo aberrante, perché vabbè, ci sono problemi a misurazione, il tema di come misurare l'output di ricerca è un tema così non semplice, però in generale l'idea per cui individualmente si premi o non si premi qualcuno sulla base di ciò che produce dal punto di vista della ricerca, anche tenendo il conto del fatto che bisogna insegnare, però che ci sia una reward, un premio o una punizione per quello che si fa in un sistema in cui le università sono praticamente tutte pubbliche mi sembra una cosa sacrosanta. Forse si sta parlando troppo di macroeconomia e poco di microeconomia, allegandomi un altro argomento che è diverso ma è connesso, per esempio quelli che pensano che tutto si salvi uscendo dall'euro hanno un po' questa idea per cui ritorna un po' l'era dei diritti, cioè nel senso se c'è la sovranità monetaria abbiamo moneta sufficienza per avere i soldi per pagare tutta la spesa possibile eccetera eccetera, mentre invece bisognerebbe tornare alla microeconomia. La tristezza dal punto di vista economico della teoria che era in vigore nel 68 e che continua un po' a essere in vigore è che si pensa tanto alla macroeconomia e non alla microeconomia, e la microeconomia è la scienza degli incentivi, non gli incentivi alle auto, gli incentivi al fatto che se tu vieni premiato perché fai una cosa buona, hai appunto una spinta a farlo di più e non a farlo di meno, ecco. Cosa banale, cosa microeconomica, cosa che riguarda la vita di tutti i giorni. Allora, naturalmente le chiedo una osservazione. Il problema non è solo l'università, perché se andiamo a vedere poi i famosi premi relativi alla parte di retribuzione premiale, per così dire, che dovrebbe premiare la produttività, nella pubblica amministrazione ogni anno e ogni volta che si va a vedere come poi viene distribuita questa quota premiale, il sindacato riesce a ottenere che non vi siano veri e propri discrimini. Abbiamo visto che vengono attribuiti dei premi, per esempio, a dei dirigenti pubblici perché usano le mail e internet pochi giorni fa, ecco, quindi questi sono i criteri, per così dire. Non è che per caso questa idea di eguaglianza un po' malfondata, malcerta, ma come si vede molto popolare, perché continua ad arrivarmi un bel po' di insulti, in realtà ha ispirato davvero la pubblica amministrazione, sì, le sono arrivati anche a lei molti ieri sulla rete, quindi, ma non è che in realtà si è impadronita la pubblica amministrazione, il potere l'hanno preso davvero, perché... Cioè, l'idea è che assolutamente c'è un meccanismo che io ritengo rilevante appunto dal punto di vista democratico, per cui se anche tramite questa idea del voler fare la rivoluzione, del voler cambiare il sistema, persone sono entrate nei gangli d'amministrazione in varie aree presto, beh, adesso sono lì da tempo e una certa inerzia nelle idee esiste. Sì, direi esiste un'inerzia nelle idee. Come si fa? Non sto dicendo che non esista anche il cambiamento. Lo so, però professore, io confido in quelli come lei, perché io tanto oramai ho fatto l'abitudine alla mia dose quotidiana anche oggi di schiaffoni, ma rassegnatevi, continuerò a fare il liberista da Radio 24. Grazie professor Puglisi, continuate su Radio 24, appuntamento a domani.